Giovedì 10 ottobre del 2013, 87.9, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. Dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. E chi se la sente può contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 6180-4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56-00185 Roma. Oppure basta consultare il sito della radio ondarossa.info, sulla homepage c'è l'opzione Sostieni per la modalità PayPal. Per quanto riguarda visionari, data la mancanza del giornale radio, diamo inizio con un po' di anticipo, vista la quantità di ospiti presenti oggi in studio. Tutti i riferimenti, la scaletta la trovate sul sito internet della radio, alla voce trasmissioni visionari, con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 10 ottobre, indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, e poi la settimana televisiva per quanto riguarda i film sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana tra rassegne, festival e proiezioni, e poi il link per riascoltare la puntata della scorsa settimana e anche del 2013 e del 2012. Per la posta, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, e c'è anche la pagina Facebook di Visionari. Ecco, noi anche quest'anno Stefania Piccinelli, direttrice della 7ª edizione di Terra di Tutti, documentari e cinema sociale dal sud del mondo a Bologna dall'8 al 13 ottobre. Stefania, ben ritrovata. Grazie, ben ritrovata a te e ai tuoi ascoltatori, sono molto felice di essere con voi anche quest'anno. Allora, diciamo Bologna in senso un po' generico, perché si svolge in più luoghi il festival. Sì, quest'anno stiamo provando un pochino ad andare a portarlo un pochino in giro. In realtà il festival è concentrato molto a Bologna, soprattutto in questi giorni. Abbiamo fatto delle proiezioni ad Ancona, ne faremo in Veneto, ne stiamo programmando, però insomma in questi giorni è a Bologna. E anche a Bologna in più luoghi. Sì, a Bologna in più luoghi, abbiamo cominciato martedì sera al TPO di Bologna con un dibattito tra alcuni blogger dell'area mediterranea, dal Marocco, Tunisia ed Egitto, per poi fare invece le prime due sezioni di programmazione, perché ricordo che Terra di Tutti Film Festival è un festival con proiezioni di tematiche, quindi abbiamo sessioni di circa un'ora e mezza, due ore di corti e mediometraggi in cui vogliamo un po' focalizzare su alcuni temi, e quest'anno ci siamo sentiti di partire un pochino su quello che succede nella sponda nord del nostro vicino Mediterraneo e chiaramente sulla questione immigrazioni e sbarchi eccetera eccetera, che è un po' un leitmotiv anche del nostro festival. Apriamo sempre con questa tematica, insomma, e quindi anche quest'anno abbiamo fatto, certo, nella stessa maniera. Poi abbiamo continuato ieri invece in Cineteca, sempre con un dibattito e poi proiezioni su sovranità alimentare, orti, nuovi modelli di sviluppo da qua, dall'Europa fino ad arrivare all'Africa, perché non crediamo più che ci sia uno sviluppo da portare noi occidentali nel cosiddetto sud del mondo, ma credo che ci sia davvero un nuovo modello di sviluppo da reinventare, che in parte c'è già, ci sono tantissime esperienze. Ieri ne abbiamo mostrate due, una qui a Bologna di orti urbani. Bologna è la città probabilmente con più orti urbani in Italia, e invece un'altra esperienza nella nuova Europa, quindi in Estonia, proprio come strategia di socialità ma anche di lotta alla povertà qui in Italia. E poi da oggi invece siamo di nuovo al cinema Lumière. Stefania, quante sono le opere che proporrete e da quanti paesi? Allora, oddio, che domanda, non lo so, non le ho contate. Così per fare un po' comunque, di cifre, per chi all'incirca abbiamo una quarantina sempre di opere, tra 40 e 50 opere tra quelle in concorso e fuori concorso. Andiamo veramente appunto dall'Italia alla Cina, che ormai sono 3 anni, insomma, abbiamo presenze di tante iscrizioni di documentaristi cinesi che raccontano appunto la loro realtà, le loro denunce, eccetera, eccetera. Africa, tanto Mali, Burkina Faso, quindi quella zona dell'Africa, chiaramente Mediterraneo, quindi Egitto, Marocco, Tunisia. E quest'anno abbiamo in particolare poi un focus su Cuba, con una collaborazione con la Scuola del Cinema di Cuba, e poi un film creato da un laboratorio partecipato in un quartiere della Habana, di cui abbiamo anche poi gli invitati qui da noi. Mm-hmm. In realtà poi ci sono tanti altri paesi, però ecco, questo è un pochino se vogliamo fare un veloce excursus, è un po' questo. Senti, come avevi anticipato, ci sono anche se ho capito bene, dei momenti di incontro, e ci sono anche ospiti? Sì, ci sono ospiti, abbiamo invitato tutti i registi. Devo dire che i registi italiani vengono ormai quasi tutti a presentare le proprie opere. Noi facciamo sempre un minimo di incontro con i registi dopo la proiezione del loro film, in modo che possano scambiare con il pubblico. Un invito che tengo a sottolineare, che è stasera, sarà l'invitato straniero di stasera, è il regista del The Executioner's Tear, che è un documentario sulla pena di morte, un'opera veramente interessante che colpisce, perché la pena di morte raccontato dal boia, sono interviste di una persona che appunto di lavoro fa l'esecutore, quindi colui che proprio fisicamente compie le esecuzioni di morte in una prigione in Egitto. Mm-hmm. E devo dire che è un documentario, insomma, molto, oddio, interessante, credo che sia la parola sbagliata, però è costruito veramente in maniera molto significativa, perché c'è questa intervista, ed è molto anche interessante come il regista sia riuscito ad entrare così nella vita di questa persona, che racconta il proprio lavoro come lo potrebbe raccontare un autista dell'autobus piuttosto che qualsiasi altro lavoro. Quindi fa veramente ben fatto, e tratta un tema di sicura di cui non se ne parla abbastanza, probabilmente. Mm-hmm. Stefania, per consultare il programma in rete? Allora, abbiamo il nostro sito, dove c'è tutto il programma completo del festival, con le sinossi dei film, le biografie degli autori, eccetera, eccetera, che è www.terraditutti.filmfestival.org. E poi ci si può seguire sulla pagina Facebook, dove vediamo tutti gli aggiornamenti, trailer, eccetera, eccetera, e via Twitter. Bene. Allora, io ti abbraccio, ricordiamo, 7ª edizione di Terra di Tutti, documentari e cinema sociale dal sud del mondo, a Bologna, da martedì scorso, dall'8 fino al 13 ottobre, tutta questa settimana, quindi. Esatto. Un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a tutti quanti, e spero che qualcuno riesca a venire a Bologna, se no speriamo di portare noi queste opere, che non vengono abbastanza viste, non circolano abbastanza, in giro per l'Italia. E per quanto riguarda i documentari, allora ti chiedo anche di mandarci i riferimenti, così riusciremo a sentire gli autori per quanto riguarda le opere italiane nel corso delle settimane. Esatto, cioè, sicuramente lo faremo. Va bene, un abbraccio. Grazie, ciao, grazie mille per l'ospitalità. Ciao Stefania. Stefania Piccinelli, direttrice di questa 7ª edizione di Terra di Tutti. Sergio Ponzio del Cine Club de Tour, che non è stato con noi martedì a Radio Teatro con i fake dove purtroppo suona, però ci parla oggi della riapertura e a tutti gli effetti per quanto riguarda questa settimana del Cine Club. Sergio, ben ritrovato. Grazie Federico, grazie a tutti voi della radio. Sì, non c'ero martedì, mi è dispiaciuto molto, ma insomma avrò occasione di suonare presto con la mia amata band sabato in occasione della preapertura del Cineclub de Tours. Cerco di spiegare perché sì. Non si tratta di una vera e propria riapertura, dato che stiamo un po' indietro con i lavori di ristrutturazione dei locali, cambieranno molte cose, ci saranno dei nuovi spazi di socialità, ci sarà una seconda piccola saletta, uno spazio ristoro, insomma stiamo organizzando le cose alla grande, sperando insomma di resistere anche così un po' alla crisi non solo economica ma anche insomma un po' di coscienze culturale, insomma un po' globale che ci sta investendo, e quindi noi insomma cerchiamo di rilanciare in questo modo, e non sarà facile, avremo sicuramente bisogno dell'aiuto di tutti i nostri soci, amici che potranno venire ad aiutarci in tutti i modi, da offrirci insomma arredo di seconda mano bicchieri, piatti, qualsiasi cosa insomma è ben accetta, anche il lavoro sia manuale che creativo, insomma vi aspettiamo perché vogliamo creare uno spazio sempre più aperto al contributo di tutti i nostri associati. Allora sabato c'è questo concerto dei Fake, sì, e sì, poi volevo chiedere in realtà, dimmi. Si inizia in realtà venerdì perché sono tre giorni di questo weekend questa parziale apertura, in realtà il locale è un cantiere, quindi sarà anche una sorta di installazione happening, insomma il tutto avverrà all'interno di uno spazio che è un guscio vuoto e insomma pieno di cose disordinate, quindi venerdì si inizia con delle proiezioni di arte video e di cinema d'autore, quindi ci saranno cortometraggi a ciclo continuato. Sabato ci sarà un concerto di Fake accompagnato come sempre da un po' di tempo a questa parte dal nostro Enea Tomei che leggerà dei pezzi, dei monologhi scritti da lui stesso. D'altronde l'avrete sentito, come no, ma poi Enea è una vecchia conoscenza del nostro radioteatro, è già stato con noi almeno in un altro paio di occasioni. Ah, ecco. E lui insomma ha pensato di accostare il suo progetto al nostro e abbiamo trovato questo modo di collaborare, di andare avanti insieme che insomma ci piace moltissimo. Il concerto di sabato sarà accompagnato da videoproiezioni anche, okay. E musica DJ a completare la cosa. Domenica sarà invece un pomeriggio, quindi si inizierà un po' prima verso le 5 con uno spazio dedicato soprattutto ai più piccoli, quindi ci saranno degli artisti di strada, cantastorie, artisti circensi che insomma ci aiuteranno a intrattenere bambini e bambine nello spazio adiacente al detour, quindi un po' all'esterno, un po' all'interno, vedremo anche un po' il tempo come si mette, okay. Ci sarà a seguire una sonorizzazione di favole animate di una bravissima animatrice tedesca degli anni 30-40 che si chiama Lotte Reininger. E così finiamo diciamo ecco questa tre giorni che sarà diciamo accompagnerà un po' le iniziative e gli eventi di questa ottobrata del Rione Monti che riguarderà un po' tutte le locali, attività e diciamo gallerie d'arte, insomma gli artisti che si muovono in quel quadrante di Roma. A questo punto Sergio lasciamo anche i riferimenti internet per seguire un po' più da vicino le vostre attività. Sì. Allora io lascerei naturalmente il sito che è sempre lo stesso, www.cinedetour, scritto tutto attaccato, cinedetour.it. Da lì poi avrete anche tutte le diciamo i link, i rimandi ai vari Facebook e compagnia. se riuscite appunto a dare un'occhiata al sito, lì insomma vedrete un po' i tempi previsti per la riapertura. Noi prevediamo di riaprire effettivamente, ufficialmente, la fine ottobre o al massimo i primi di novembre, e quindi insomma, se volete aiutarci in qualsiasi modo, volete contribuire, volete sostenerci, volete venire anche solo a farci sentire, diciamo, la vostra solidarietà, datevi un'occhiata insomma a quelli che sono i tempi e la nostra presenza lì sul campo, in modo che riusciamo a coordinarci, insomma. Ok, tra l'altro poi ci sarà modo durante il corso della stagione di risentirci per le vostre proposte, chiaramente. Va bene, certo, ti ringrazio Federico, questo è sempre un grandissimo invito che ci fai a riuscire a comunicare insomma le nostre iniziative. Sergio, t'abbraccio e a risentirci presto. Grazie a te Federico. Ciao. Sergio Ponzio del Cineclub dei Tour per quanto riguarda le iniziative legate alla riapertura. Ritroviamo Italo Spinelli, direttore della 14ª edizione di Asiatica Film Mediale alla Pelanda qui a Roma dal 12 al 20 ottobre. Italo, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Grazie, salve, ciao, grazie. Raccontaci un po' di questa edizione. Un'edizione innanzitutto un po' miracolata, visto i tempi che corrono, nel senso che è davvero un miracolo che siamo riusciti a farla anche quest'anno, questa edizione, perché le condizioni erano proibitive. Però vorrei subito dire che c'è stato un assessorato, che in particolare è quello della cultura della regione, dell'assessore Lidia Ravera, che ci ha veramente sostenuto come una leonezza e si è battuta perché il festival abbia luogo. Poi è un festival sempre molto ricco, ci sono 70 film, 47 lungometraggi, il resto sono tra corti e documentari. La documentaristica è particolarmente così attenta un po' a quello che sta succedendo anche nel mondo arabo, perché noi dal 2011 abbiamo una sezione che guarda dall'altra sponda del Mediterraneo, e da quell'area araba sono venuti dei documentari davvero interessanti e davvero, come dire, un po' necessari vedere. Ecco, proprio in competizione, scusami. No, continua, però ti volevo chiedere anche poi, quando termini il discorso, da quali paesi e da quanti paesi più o meno proporrete i lavori? Dunque, la lista sarebbe lunga, io posso iniziare, poi quando credi puoi interrompermi. No, diciamo comunque, approssimativamente quanti sono i paesi, facciamo così, per quanto riguarda il continente asiatico. Più di 20 paesi, ok. Bene. Insomma, che partono dall'Afghanistan fino alla Turchia, okay. Dal ordine alfabetico. Sì, e quindi non te li elenco, però insomma c'è la Corea del Nord, c'è l'India con i documentari, i nuovi film, con un straordinario documentario sulla storia del cinema indiano, ci sono appunto i film in competizione nuovi, appunto dicevo Corea del Nord, Birmania, Corea del Sud. E senti Italo, c'è anche qualche opera che sei particolarmente lieto di ospitare, una chicca, qualche chicca quest'anno? Sono veramente molto soddisfatto della selezione di quest'anno. Sì. Però appunto, per esempio, l'apertura, se di chicche vogliamo parlare, è un film del 1971 che è stato restaurato dalla World Foundation di Scorsese, e il restauro poi è avvenuto con la Cineteca di Bologna, che è Rag Bar di Barzai del 1971, che è un capolavoro della cinematografia iraniana. È veramente il film che ha dato veramente il là a tutta la nuova cinematografia iraniana a partire dagli anni 70, ed è veramente splendido, cioè, ha una leggerezza, allo stesso tempo una capacità di racconto veramente un capolavoro, infatti Scorsese dice da non perdere, è un film meraviglioso, un grande entusiasmo, sono state spese 15.000 ore di lavoro per restaurarlo, esisteva solo un'unica copia. Questo è un film a proposito di Kick, come dicevo sono molto soddisfatto dello sguardo sul mondo arabo, tutti i documentari che appunto, per esempio dal Bahrain, di cui si parla molto poco, però ci sono dei documentari che raccontano quello che sta avvenendo lì, dalla Tunisia, e apriamo con un documentario molto forte, molto controverso, dalla Siria, per quanto riguarda, cioè vista da chi poi l'ha vissuta, la rivolta, la repressione, e che contro tutti i cliché che vedono da una parte diciamo i ribelli al-Qaedisti e dall'altra Assad, mentre in realtà c'è una popolazione che ha una storia più reale, più profonda. E credo che quest'anno insomma al di là è veramente una riconsiderazione sulle informazioni che abbiamo sul resto del mondo di quello che accade, ecco proprio Scusami. Restando sui paesi, ecco, volevo chiederti quali sono le cinematografie che si stanno più imponendo rispetto alla selezione che avete curato? Ma sicuramente un paese che sta producendo ottimi film e anche documentari è la Turchia. La Turchia che, come dire, prende tutta l'esperienza iraniana, ma in qualche modo ha la capacità poi di reinventarla nell'identità turca, ed è sicuramente anche diciamo quella che è la fascia media del prodotto della cinematografia turca, è molto molto interessante. Senti, ed è anche senti Italo, il sito internet per quanto riguarda il programma? www.asiatica.it. Benissimo. Allora volevo sottolineare solo una parola. Ancora volevo dirti che come sai Asiatica ha sempre un po' frontiere aperte, no? Sì. Non solo per i film, ma ci sono delle sezioni, altre, ci sono moltissimi corti, c'è collaborazione con Jumping Frame, che sono corti sulla danza da Hong Kong, c'è l'Archivio Oriente con l'Istituto Lucia, ma soprattutto noi abbiamo sempre un ospite straordinario all'interno, abbiamo avuto Shirin Ebadi, abbiamo avuto Amartya Sen, Premi Nobel, e quest'anno domenica appunto alle 5 c'è Ashish Nandi, che è sicuramente uno degli intellettuali più interessanti oggi non solo in India ma in tutto il panorama internazionale, quello è un incontro da non mancare. Bene, allora ricordiamolo, 14ª edizione di Asiatica Film Mediale alla Pelanda qui a Roma dal 12 al 20 ottobre. Italo, io ti abbraccio e a risentirci presto. Anche io forte, grazie. Ciao. Italo Spinelli, direttore di questa 14ª edizione di Asiatica Film Mediale. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15, anche se abbiamo cominciato con qualche minuto d'anticipo per la mole di ospiti da proporre quest'oggi. Continuiamo a parlare di festival e lo facciamo con Valentina Domenici, direttrice di Abstracta, International Abstract Cinema and Video Art Exhibition, alla Casa del Cinema qui a Roma, 10 e 11 ottobre. Valentina, ben ritrovata. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Che edizione, tra l'altro? Questa è l'ottava edizione, benissimo. Sì. Allora, raccontaci un po' di questa storia, di cosa proporrete quest'anno. Allora, quest'anno proponiamo la solita selezione di video e di film, quest'anno però con un tema nuovo che è quello della metropoli contemporanea e naturalmente della sua rappresentazione astratta, perché il filo rosso del nostro festival da 8 anni è quello del cinema sperimentale, delle nuove sperimentazioni audiovisive. E in più l'altra novità è che quest'anno faremo parallelamente al festival una mostra fotografica, un photo contest di Abstracta, anch'esso legato al tema della metropoli e della sperimentazione, in questo caso ovviamente attraverso le foto. Bene. Allora, è un festival particolare perché il cinema astratto non riguarda quasi mai quello di cui trattiamo. In particolare noi ci focalizziamo sul documentario e quindi sul cinema del reale, però insomma è molto interessante questo aspetto della videoarte. Insomma, ottava edizione comincia ad avere una certa storia, ecco, come si è sviluppato Abstracta? Sì, inizialmente 8 anni fa da un'idea di Massimo Pistone, l'idea era appunto quella di proseguire una tradizione iniziata nei primi anni 50 a Liège, che era appunto una tradizione di avanguardie legate a una certa astrazione cinematografica. Sì. Poi nel tempo, e quindi le prime edizioni ovviamente sono state più, hanno seguito più quella linea, quindi dell'astrazione pura, ecco, diciamo così, video astratti puri, per esempio penso a 3 tempi di cinema astratto che riproporremo anche domani sera tra le altre cose, e poi negli anni si è andata sviluppando, sconfinando con la videoarte che ha assunto sempre più rilevanza, e naturalmente negli ultimi anni poi con le nuove tecnologie è cambiato un po' tutto il panorama, e anche le idee e le proposte che ci arrivano sono cambiate, quindi c'è sempre una sperimentazione audiovisiva, però anche il tentativo di raccontare delle storie. Ah, okay. Quindi si va meno l'astrazione pura, si è abbandonata un po' l'astrazione pura e si è andato verso il cinema un po' più narrativo. Oh, come avete organizzato questa 2 giorni? Allora, inizia stasera alle 21 con le proiezioni di una serata che abbiamo chiamato No Man's Land, perché appunto è una serata che riguarda dei paesaggi un po' apocalittici, temporanei, e ci saranno alcuni film in concorso, altri fuori concorso. Abbiamo fatto un misto stasera più o meno fino alle 24, e domani proseguiamo invece con dei video un po' più tradizionali, di Abstracta, quindi dei video di mashup, opere un po' più di videoarte, e poi domani sera ci sarà la premiazione, quindi i giurati, anche quest'anno abbiamo una giuria internazionale, decreteranno il vincitore di quest'anno. Oh, visto che si tratta di un'ottava edizione, esiste un archivio consultabile di Abstracta? Non ancora, diciamo, completo al 100%, però l'abbiamo iniziato a fare. Sì. Da 2 anni, ed è consultabile sul nostro sito abstractafestival.com. Sì, vogliamo proseguire assolutamente e fare un vero e proprio archivio anno per anno. È prevista anche la presenza degli autori? Sì, ci sono alcuni autori, soprattutto gli autori italiani, ma anche un paio di autori internazionali che ci sono venuti a trovare, per esempio Stuart Pound, che è un artista, un video artista sperimentale inglese che ci è venuto a trovare da Londra e che ha vinto l'anno scorso, tra l'altro, con il suo video, e che ci ha riproposto delle cose quest'anno, e poi un paio di autori, 2 o 3 autori italiani, che sono anche un po' gli abitué di Abstracta, per esempio Lino Strangis, Saul Saguatti, Igor Imov, che ci presenta un'opera di animazione. Sì, loro saranno presenti tutti stasera e domani. Bene, allora i riferimenti ce li hai dati, ricordiamolo, oggi e domani alla Casa del Cinema qui a Roma, con l'ottava edizione di Abstracta, Festival Internazionale di Videoarte, Cinema Sperimentale. Valentina, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Grazie a te, a presto. Ciao ciao. Valentina Domenici, direttrice dell'ottava edizione di Abstracta. Visionari su Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, poi c'è la pagina sul sito internet della radio ondarossa.info alla voce trasmissioni e visionari, e poi visionari su Facebook. Federico Rizzo, era un po' di tempo che non ci sentivamo, come stai? Benissimo, tu come stai? Come va la tua libreria? Bene, ma anche la trasmissione niente male, direi. Lo so, tutto quello che fai tu è sempre di ottimo livello. Ah, che bello, ti ringrazio. Allora, noi ci eravamo sentiti qualche tempo fa, ormai parliamo del 2009-2010, per Fuga dal call center. Ora torni in sala, tra l'altro non c'è stata la presentazione alla stampa, devo dirti che neanche... da ieri non sono riuscito a vederlo il film, ma insomma lo farò al più presto. Stiamo parlando del Ragioniere della Mafia, che esce in sala oggi, giovedì 10 ottobre. Lo fa in maniera del tutto indipendente. Allora, Federico, raccontaci un po' di questa avventura. Guarda, è un'avventura particolare perché innanzitutto è una distribuzione indipendente che si va a scontrare contro le solite major, che sono sempre più accanite. Quindi noi usciremo in circa 100 sale, che questo è un risultato piuttosto importante. Direi, sì. Naturalmente Roma e Milano le posticipiamo al 21, sì, perché ci andiamo a inserire la settimana prima di Checco Zalone, dove nessuno vuole uscire, però noi, essendo indipendenti, non avendo nulla da perdere, abbiamo detto le due grandi città le facciamo in questo modo, okay, mentre tutte le province minori abbiamo fatto un sistema di 50-50 con gli esercenti. E tu pensa, abbiamo fatto proprio un intero tour per l'Italia per convincerli, facendoli vedere la pellicola, cercando di studiare insieme dei metodi per promuoverlo localmente. Quindi io credo che sia importante anche portare agli esercenti dei modi nuovi, sì, per promozionare il cinema italiano. Sì, troppo, sì, facile lamentarsi dicendo che la distribuzione è un problema, troppo facile lamentarsi contro i film americani, quelli ci saranno sempre, purtroppo. Bisogna rimboccarsi le maniche, e non affidare i propri film a dei distributori che lo mettono lì in sala e non lo pubblicizzano e lo lasciano morire. Sappiamo bene, sì, a chi mi riferisco. Sì, sì. Federico, all'origine c'è un libro. All'origine c'è un libro di Donald Vergari che a me è piaciuto molto. È la storia di un ragioniere che in tempi di crisi lavora per una multinazionale, viene licenziato e poi gli viene fatta una proposta a cui non può rifiutare, cioè diventare il contabile della mafia. Ovviamente non è il solito mafia movie pesante, abbiamo cercato di fare un film fresco, giovanile, giocando naturalmente con gli stereotipi dell'italianità, della mafia, eccetera eccetera. Un film che mischia il cinema classico, abbiamo un divo insolito per il cinema italiano che è Lorenzo Flaherty, che secondo me ha un fisico proprio da quei divi degli anni 50 americani, tipo James Stewart, Cary Grant, e quindi è una narrazione lineare classica alternata a un ritmo fresco giovanile, con tanti attori bravi del nostro cinema, da Ernesto Maillet in un'interpretazione secondo me straordinaria, Tony Sperandeo, Ciro Petrone, Nando Irene, insomma, e poi tante belle donne che non guastano mai. Senti Federico, come mai questa scelta di parlare di mafia e con questo taglio? Ma guarda, fondamentalmente io credo che un giovane regista debba fare più tipologie di cinema, non, sì, si debba fossilizzare nel cinema d'autore intimista fatto in tre mura, debba fare un po' tutto, perché fondamentalmente siamo come direttori d'orchestra: più facciamo il nostro lavoro, più lo impariamo, più diventiamo bravi. Io spero considero questo mio mestiere come un mestiere in cui si cerca di diventare sempre più bravi, di crescere e di imparare anche delle altre cose facendo dei semplici film di intrattenimento. Questo non lo ritengo un film d'autore, lo ritengo un film di intrattenimento gradevole. Abbiamo fatto un tour di presentazioni prima dell'uscita di oggi e al pubblico, quello vero, sembra piacere, quindi questa è una cosa per me molto molto importante. Federico, in questo intervallo da Fuga dal call center al Ragioniere della Mafia, ti sei dedicato alla costruzione di questo secondo o c'è stata anche qualche altra parentesi? No, c'è stato un altro film, okay, un film horror che mi ha prodotto Galliano Iuso, un storico produttore romano, che si chiama Taglio Netto, e che però non è uscito in Italia ma è uscito in tutto il mondo, venduto dalla Film Export Group con il titolo Deep Within. È un film che credo uscirà a breve in DVD per l'Italia e devo dire è sempre questo ragionamento di fare più generi, più cose, sempre ovviamente dignitose. Non mi piaceva l'idea di essere etichettato come il giovane regista che fa solo i film politici, ecco, mi interessa crescere come regista, prima di ogni altra cosa. Ecco, hai parlato all'inizio di questo di questa nuova metodologia che stai provando rispetto agli esercenti. Ecco, ci sono in tempo di crisi vari tentativi da parte di vari autori, dalla rete col video on demand a passare alla rete di distribuzione indipendenti. Ecco, tu come vedi questi tentativi e cosa ne pensi in proposito? Ma io penso che siano il futuro, assolutamente, Federico, sono assolutamente il futuro e si andrà in questa direzione, ma però non bisogna abbandonare la sala, il fascino della sala, perché è un fascino unico anche in termini di aggregazione, di dibattito, di conoscenza e di visione del cinema. Certo, nelle sale non si possono aspettare che la gente vada in massa mettendo dei prezzi così alti. Io credo che la proposta di un produttore, ora non ricordo chi, che diceva di abbassare a 5 euro il biglietto, era una proposta giusta, perché non, in tempi di crisi non si può aspettare che le famiglie spendano così tanti soldi, e anche perché i soldi non ci sono. Quindi invogliare con le agevolazioni, portare il cinema nelle scuole, nel Cineforum, questa è una cosa fondamentale. Però sì, credo che per il cinema indipendente internet sia uno strumento fondamentale. Sì, no, però c'è anche questa via della rete delle sale indipendenti, perché uno dei problemi grossi ora i costi per la realizzazione dei film con il digitale si sono ridotti di molto. Il problema, lo scoglio, resta quello della visibilità, della distribuzione. Assolutamente. Tu pensa che noi 4 anni fa con Fuga dal call center dovevamo girare con le pellicole e ogni volta stamparne una era un prezzo incredibile. Sarebbe stato impensabile uscire in 100 sale 4 anni fa per noi, per gli indipendenti. Oggi lo possiamo fare perché ci sono questi nuovi metodi di trasmissione via internet, con le parabole, eccetera. Hanno dei prezzi ancora un po' alti, devo dire, però sono assolutamente il futuro. E un'altra cosa rispetto a questo dato che mi hai dato delle 100 sale, mi sembra veramente ragguardevole. È funzionato tutto con il contatto diretto con gli esercenti o comunque hai fatto affidamento anche a una rete preesistente? No, abbiamo fatto anche un affidamento a una rete preesistente, ad esempio nelle Marche ci siamo affidati all'F Group di Giulietta Paolinelli, che è stata straordinaria. Lei ha visto il film, ha detto: ma questo è un film che può funzionare. Del resto è stato venduto a un sales agent inglese molto importante che lo venderà in tutto il mondo, e lei giustamente ha detto: perché non può funzionare in Italia? Perché c'è la mafia dei distributori, proviamo a scommettere. Lei gestisce Marche, Abruzzo e Umbria, ha detto: io per quanto mi riguarda lo metto nei miei cinema. Però gli altri agenti non la pensano in quel modo, hanno le mani legate. Quindi noi abbiamo veramente fatto, come i vecchi rappresentanti di un tempo, il giro in macchina, con la macchina piena di poster, volantini e tutto quanto. I DCP li abbiamo portati veramente a tutti gli esercenti, da Bagheria fino a Friuli. Bene, allora ricordiamolo. Ci sei? Ci sei? Sì, ci sono. Ah, perché ho sentito un rumore. E no, un'altra cosa che ti volevo chiedere rispetto alla realizzazione, ecco, come è stato il lavorare a questo film? Guarda, è stato faticoso perché come al solito io accetto sempre di fare film che non vengono finanziati dallo Stato, quindi che non chiedono soldi agli esercenti, però diventa sempre più faticoso fare cinema indipendente. Ci siamo ritrovati l'ultima settimana senza i soldi per pagare le maestranze, i tecnici, gli attori, le solite cose, ed è stato faticosissimo perché ho dovuto convincere tutta la troupe a resistere, e pian piano li abbiamo pagati. Ti confesso che anche con questi incassi dobbiamo ancora pagare delle altre persone, io stesso non sono stato pagato, quindi è il solito meccanismo del cinema indipendente. Sì. Però io credo che in questo momento politico in cui la gente non riesce ad arrivare a fine mese non si possono fare i film chiedendo soldi allo Stato. Io ho sempre fatto film senza soldi statali, in questo caso neanche senza i soldi delle Film Commission. Credo che la soddisfazione sia molto molto superiore. Naturalmente sì, è un mio punto di vista. Certo. Poi uno è libero di fare i film anche con i soldi dello Stato. Certo. E tornando al film, rispetto al libro di partenza, te ne sei distaccato o sei stato abbastanza fedele? Che scelta hai fatto? Ma insomma, chi mi ha contattato per questo film sapeva un po' la mia visione del cinema, sapeva che una volta sul set mi piace fare improvvisare gli attori, mi piace giocare con la sceneggiatura, okay. E quindi sono rimasto fedele, ma naturalmente l'abbiamo adattato a quello che è un po' il cinema moderno, cioè quello di disintossicarsi da un tipo di sceneggiatura che sarebbe semplicemente un meccanismo di trasposizione meccanica, quindi un po' più fresco. Anche in fase di montaggio questo procedimento avviene, in fase di montaggio ci dimentichiamo di quello che era la sceneggiatura e perfino di quello che erano gli intendimenti del regista. Quindi creatività nella creatività. Assolutamente. Bene Federico, allora ricordiamolo, Il ragioniere della mafia, da oggi in uscita, oggi giovedì 10 ottobre in 100 sale con le modalità che ci hai spiegato all'inizio. Io ti abbraccio e a risentirci presto. Grazie Federico, un abbraccio. Ciao. Viva Radio Onda Rossa, ciao. Ciao, ciao. Federico Rizzo, regista del film Il ragioniere della mafia. Marco Turco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno. Con te per parlare del film TV Altri Tempi, che sarà trasmesso da Rai 1 il 13 e il 14 ottobre. Stavo riguardando anche, noi ci eravamo sentiti per un tuo lavoro precedente, il film TV su Basaglia, che insomma è andato piuttosto bene, e stavo anche ragionando sul fatto che tu parli di punti di riferimento della storia di questo paese, da Basaglia passando per la cultura musicale, quindi Rino Gaetano, per arrivare alla vicenda della legge Merlin riguardo le case chiuse, di questo Altri Tempi. Ecco, questo tuo percorso, Marco, come funziona? Ma funziona che in qualche modo mi riconosco in storie che raccontano di perdenti, di emarginati, di personaggi che la società fatica a digerire. Lo erano i Matti, lo era in qualche modo Rino Gaetano, che andava contro tutte le correnti del suo periodo, e lo è questo, che racconta la storia delle donne che vivevano questa condizione terribile, che era quella delle case chiuse, della vendita del proprio corpo all'interno dei bordelli italiani, che è andata avanti fino al 58. Siamo stati uno degli ultimi paesi a chiudere i bordelli. E quindi noi, che poi nel film raccontiamo, come dire, il dietro le quinte del bordello, cioè raccontiamo questa vita dal punto di vista delle ragazze, delle donne, era un punto, in qualche modo si ricollega a quello che dicevi tu, a quell'atteggiamento, a quell'approccio verso certi momenti e certe storie del nostro paese, per raccontare le persone che l'hanno più sofferti. Sì. Marco, come nasce questo progetto di Altri Tempi? Questo progetto nasce appunto dopo C'era una volta la città dei matti. Ne parlammo col direttore di Rai Fiction di allora, Fabrizio Del Noce, che con una buttata disse: beh, abbiamo fatto la legge Basaglia, potremmo fare la legge Merlin. E io ho colto al volo l'occasione, perché mi sembrava interessante, al di là delle leggi che comunque hanno una loro importanza fondamentale. E poi devo dire che appunto in un paese che fatica a esprimere delle riforme, il fatto che comunque ho raccontato due leggi che sono un po' due fiori all'occhiello del nostro paese, mi faceva anche piacere, insomma, raccontare anche, diciamo, i problemi della nostra società, ma anche del fatto che a volte lo Stato in qualche modo li affronta, anche se poi adesso, diciamo, stanno rimettendo in discussione la legge Merlin, come tentano continuamente di rimettere in discussione anche la legge Basaglia. Ecco, diciamo, fanno fatica le leggi buone a mantenersi salde. Senti, come hai lavorato sulla documentazione rispetto a quella legge? Ma guarda, noi, diciamo, mentre con Basaglia siamo stati più fortunati perché era più recente la storia, io ho avuto la possibilità di intervistare i testimoni di quelle vicende. Qui era più difficile perché siamo andati più indietro nel tempo, quindi c'è stato più un lavoro di studio delle fonti, diciamo così, e tra le fonti c'erano comunque molte lettere che le donne di queste ragazze dei bordelli, durante gli anni in cui la Merlin tentava di far approvare la legge, e ce ne sono voluti 10 nel Parlamento italiano per farla approvare, lei ha cominciato nel 48 e la legge è stata approvata nel 58, in quell'arco di tempo lei ha avuto molti contatti con le prostitute, lei faceva delle ispezioni, le incontrava, le riceveva al Parlamento, e tante di loro scrivevano delle lettere molto accurate alla senatrice, e noi ci siamo ispirati a queste lettere che raccontano storie di vita, fondamentalmente di vite terribili, di ragazze abusate, violate, messe incinte, abbandonate, e che per forza di cose finivano per lavorare nei bordelli. Ecco, proprio a questo proposito, Marco, anche considerando chi ci ascolta ed è più giovane, ecco, qual era la situazione in Italia allora rispetto proprio al mondo della prostituzione? Ma allora, intanto diciamo una cosa, che con la legge Merlin la prima a pensare che non avrebbe risolto il problema della prostituzione era la Merlin stessa. Sì. Il discorso lì era diverso, il discorso riguardava intanto la condizione di queste donne, di quelle ufficiali, diciamo, che vivevano ufficialmente nei bordelli, ed era una condizione di reiette sociali, perché perdevano tutti, molti dei loro diritti, non potevano votare, non potevano sposarsi con per esempio un impiegato dello Stato, perché l'impiegato dello Stato avrebbe perso immediatamente il posto, erano schedate e ogni volta che si spostavano da un paese all'altro, da una città all'altra, dovevano andare prima al commissariato da dove partivano e poi al commissariato dove arrivavano. Erano delle donne considerate inferiori, e tra l'altro da fuggire nelle strade, no? Poi dentro le mura del bordello no, invece lì venivano sfruttate e abusate. Quindi da un certo punto di vista la legge ha tolto questo, cioè la schedatura della prostituta non è più esistita, queste donne sono tornate ad avere i loro diritti. L'altra questione fondamentale della legge Merlin è che lo sfruttamento della prostituzione nei bordelli in realtà avveniva anche a vantaggio dello Stato, cioè lo Stato lucrava su questo sfruttamento, e questo giustamente la Merlin sosteneva, e il Parlamento poi alla fine l'ha sostenuto, che non poteva essere, lo Stato non può lucrare sullo sfruttamento della prostituzione. Questi sono i due punti fondamentali della legge. Dopodiché il fatto che la legge non abbia risolto la prostituzione, il problema della prostituzione, voglio dire, è una banalità, non avrebbe certo potuto risolverlo, ma non era nemmeno quello, diciamo, l'obiettivo della legge. Sì, sì. Ecco, dicevi delle donne che sono poi state vittime di tutto questo meccanismo prima, durante l'esistenza dei bordelli. Ecco, com'è stato, com'hai deciso di vivere l'approccio alle perdenti? Guarda, intanto ti dico le storie delle varie ragazze, perché poi c'è una protagonista che è appunto Vittoria Puccini, che racconta tutto l'arco. Addirittura la nostra protagonista comincia come una di tante di queste storie, abusata, con una figlia, costretta a finire in un bordello, ma qui addirittura facciamo un salto mortale, perché alla fine lei addirittura diventa maîtresse di un bordello. E insieme a lei si forma tutto un gruppo, che è un gruppo di protagoniste, possiamo dire, di questo film, e che ti danno un po' l'impressione corale come era in Basaglia il manicomio, no? Abbiamo affrescato un bordello. Le storie di queste ragazze sono storie appunto prese da storie reali, da storie di vita reale raccontate, e ad ognuna di loro abbiamo dato ognuna di loro è una sfaccettatura di un universo femminile molto complesso. Intanto, per esempio, vengono da tutte le regioni d'Italia, ognuna parla col suo accento, ognuna ha un suo bagaglio, ognuna c'è un suo modo di vivere la vita, quella più religiosa, quella meno religiosa, quella più, quella tossica, quella quindi è un affresco sul mondo femminile visto appunto da da donne che si sentono sconfitte, ma che nel film in qualche modo reagiscono, cioè prendono consapevolezza anche grazie alla chiusura del bordello che le cose in qualche modo possono cambiare. Diciamo, questa è una speranza che ci siamo concessi in un film che appunto racconta tante tribolazioni. Volevamo che alla fine una speranza che poi è costituita dalla figlia della nostra protagonista, che è una donna che si affaccia dopo gli anni 60, è una donna che si affaccia su un'Italia che ci si augura in qualche modo, per certi aspetti, è anche migliorata proprio nel rapporto tra uomo e donna. C'è ancora, per l'amor di Dio, un cammino lunghissimo da fare, però delle cose sono cambiate e in qualche modo noi questo lo raccontiamo, questa anche presa di coscienza femminile attraverso la figlia di questa protagonista. In questo c'è anche il senso del titolo Altri Tempi? Ma diciamo che lì è stato un po' un gioco, no? Nel senso, ovviamente chiunque può vederci un'allusione alle cose che ancora condividiamo di quei tempi. È vero che è una storia di altri tempi, è vero che i bordelli non ci sono più, che non c'è più quell'Italia lì dove ancora vigeva il delitto d'onore piuttosto che l'obbligo per le donne di osservare i doveri coniugali. Non è più quell'Italia lì, è un'Italia che ha ancora tanta strada da fare, però quelle tribolazioni che raccontiamo nel film in qualche modo abbiamo voluto dargli un senso, abbiamo voluto dargli, come dire, una prospettiva, cioè non abbiamo sofferto in vano, in una chiave un po' così speranzosa, ecco, perché io però ci cerco di mettere in tutti i film che faccio, anche con Basaglia, nonostante tutti i drammi di una legge che fa fatica, però qualcosa è cambiato in meglio nella nostra società. Bene Marco, io ti ringrazio. Ricordiamo il film TV Altri Tempi su Rai 1 il 13 e 14 ottobre. Speriamo di risentirci presto. Certo, me lo auguro. Grazie infinite. Un abbraccio, ciao. Arrivederci. Questo Marco Turco, questa è Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15 sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e su Facebook Visionari. E un bel ritrovato anche a Francesco Castellani, regista di Black Star, Nati sotto Grazie. Una stella nera, in uscita in sala oggi, giovedì 10 ottobre. Come va Francesco? Bene, grazie, un saluto a tutti. Ci eravamo sentiti un anno fa. Era novembre dell'anno scorso, perché il tuo film era stato presentato al Festival del Cinema di Roma. Allora, si parla di periferia romana, Pietralata, di una squadra di rifugiati e di un comitato di quartiere. Ecco, dici un po' di questa storia. Allora, nasce come storia di un conflitto. In realtà, in effetti, è così: c'è un comitato di quartiere che si oppone al fatto che una piccola squadra di calcio fatta solo di ragazzi rifugiati abbia ottenuto in gestione un campo del quartiere che era in realtà abbandonato. Nel momento in cui questo campo viene di nuovo utilizzato, qualcuno si mette di traverso e dice: ma allora questo campo spettava a noi, dovevano chiedercelo, perché arrivano sempre prima gli altri, questi stranieri che arrivano e ci rubano le cose. E da lì nasce un conflitto che si protrae per 4 giorni, perché poi il comitato di quartiere ottiene, grazie all'abilità di un avvocato, un'ordinanza di sgombero per facendo leva su alcuni cavilli legali. A quel punto i ragazzi della squadra non ci stanno, e piuttosto che lasciare questo pezzo di terra che per loro è diventato di importanza vitale, si barricano dentro e non vogliono più uscire. Senti Francesco, all'origine c'è ne avevamo parlato anche la scorsa volta, una vera squadra di questo genere a cui avevi dedicato un documentario e un film per la televisione, ecco, e che storia è questa? Sì, infatti diciamo il film è liberamente ispirato alla squadra dei Liberi Nantes Football Club, che esiste davvero, gioca a Pietralata nel campo 25 aprile, che ha ottenuto in gestione appunto. ma questo è l'unico dato di aggancio con la realtà, perché per il resto la storia del film è completamente inventata. Grazie a Dio nel quartiere di Pietralata non succede niente di male, non ci sono conflitti, non ci sono comitati di quartiere, ma ci piaceva lo stesso ambientare il film a Pietralata, intanto perché c'è il vero campo e poi perché Pietralata nell'immaginario romano e collettivo nazionale è, insomma, è la Pietralata di Pasolini, della vita violenta, è un quartiere popolare denso di storia, di solidarietà, insomma, ha fatto di tante cose, per cui pur mettendo in scena un conflitto ci dispiaceva rinunciare all'identità vera del quartiere. Senti, è proprio invece questa storia, questa squadra reale, vera, che ha un bel un così bel nome, dici un po' di questa squadra. Ma intanto, se vuoi, ti dico il nome da dove viene, perché è ispirato a un verso dell'Eneide, che era il verso del libro primo in cui si narra il naufragio della flotta di Enea durante il viaggio dopo la partenza da Troia, e a un certo punto Virgilio dice: rari nantes ingurgite vasto, cioè si vedevano pochi che si salvavano nuotando in mezzo ai flutti del mare dopo il naufragio. Allora ai ragazzi italiani che hanno inventato questa squadra sembrava bello, dal rari nantes, diventare liberi nantes in relazione appunto al salvataggio dal mare, che insomma i fatti di questi giorni ci insegnano essere comunque lo snodo cruciale di questi viaggi forzati dei migranti. Allora la squadra, per il resto, appunto, l'hanno inventata un po' di amici italiani che credevano che il calcio potesse essere usato in un altro modo rispetto a quello consueto. Hanno avuto ragione, perché transitano tra i 100 e i 150 ragazzi rifugiati all'anno in questa squadra, i ragazzi che passano dai centri di accoglienza, che arrivano da Lampedusa, che arrivano da altre coste sulle quali sono sbarcati, e che trovano in questa squadra un momento reale, non retorico, d'aggregazione, perché poi sono persone che sono veramente sole, insomma, al di là delle chiacchiere, chi scappa in quelle condizioni lascia tutto alle sue spalle, dimentica la propria identità, magari non vuole essere trovato da polizie dei paesi dittatoriali, e quindi trovare un luogo dove giocare a pallone, conoscere degli italiani, iniziare a parlare una lingua che non conoscono, per loro è fondamentale. Allora Francesco, per quanto, tornando al film, tra l'altro ci sono una serie di attori amici provenienti dal teatro, ecco, e la decisione è stata quella di una mescolanza di generi, ecco, raccontaci un po' di questo. Beh, intanto noi partivamo da una consapevolezza che era quella di essere un film di piccolo budget, quindi non avremmo potuto comunque pensare ad attori già chiaramente affermati di richiamo. D'altra parte, questa apparente limitazione era una risorsa da sfruttare, l'abbiamo fatto, perché siamo riusciti a coinvolgere con un grande casting, perché abbiamo incontrato tantissimi giovani attori di teatro, siamo riusciti a coinvolgere dei talenti che secondo me meritano altre opportunità nel cinema, perché sono magari già strutturati nella loro attività teatrale, hanno fatto delle scuole importanti, hanno delle esperienze già di un certo peso, ma non hanno mai avuto accesso al cinema in un modo più pieno, e qui, diciamo, da Alessandro Procoli a Gabriele Geri a Pierpaolo De Meio, ce ne sono, ne devo dimenticare per forza qualcuno, devo dire che oggi come oggi non cambierei nessuno di loro con una stella di Hollywood. E per quanto riguarda invece i diversi toni che hai che hai scelto per il film? Beh, io credo fortemente, d'altra parte mi sono occupato, come hai ricordato te in passato, già di queste tematiche legate alla migrazione, non solo con la squadra ma in precedenza anche con altre esperienze personali, con dei reportage, dei viaggi all'estero. In questo momento credo che raccontare una storia per un pubblico più ampio, in maniera popolare, e cercare di far passare comunque qualche suggestione di comprensione nei confronti di questo fenomeno così complicato sia più logico con la chiave della commedia, una commedia che ovviamente non cancella i momenti di intensità e di drammaticità che ci sono comunque nel film, ma cerca di tenere, diciamo, tutto insieme con un filo di ironia, ecco, di leggerezza, proprio per cercare di andare incontro a un pubblico più ampio. In questo magari rinuncio un po' alle vesti di autore, nel senso, non ho fatto un film d'autore, ho fatto un film dichiaratamente, volutamente più popolare. Sì, al servizio di una storia. Francesco, allora ricordiamolo, Black Star, Nati sotto una stella nera, in uscita in sala oggi, giovedì 10 ottobre, in quante copie? Allora, per ora siamo con 15 copie, ma stiamo raccogliendo, tra l'altro siamo autodistribuiti, è un percorso complicato e faticoso, quindi lo dico con orgoglio, perché uscire a Milano, uscire a Roma, uscire ad Ancona, a Taranto, uscire, adesso non me le ricordo tutte, comunque a Terni, uscire a Campobasso, insomma, in tutte sale, diciamo, di una certa qualità, è comunque un risultato enorme. Poi abbiamo tantissime richieste, devo dire, fortunatamente, incrociando le dita, siamo già psicologicamente tarati su un'uscita non simultanea, perché, diciamo, con l'autodistribuzione è difficile riuscire a ottenere questo risultato, ma da qui ai prossimi 20 giorni stiamo chiudendo accordi con molte altre sale in giro per l'Italia. Bene, bene, allora speriamo bene, io ti abbraccio e a risentirci io presto. Io vi ringrazio, siete i miei portafortuna, mi seguite dall'inizio, quindi sì. Insomma, grazie davvero, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Francesco, ciao. Ciao. Francesco Castellani, regista di Black Star, nati sotto una stella nera. Bene, cambiamo per un documentario questa volta con il nostro cineasta operaio Giuliano Vugani, regista del documentario H2A, l'amianto nell'acquedotto di Bologna, che sarà presentato all'Europa Cinema Bologna il 15 ottobre. Giuliano, intanto ben ritrovato. Ciao a tutti a voi, grazie, grazie di questa telefonata. Ti ho presentato come il nostro operaio cineasta. Grazie. Perché poi in effetti è così. Allora Giuliano, questa storia come parte? Dunque, l'anno scorso, faccio presto, anche se comincia male. No, l'anno scorso mi hanno chiamato a Bologna, in agosto, quando era deserta Bologna, a presentare all'Arena Orfeonica, un'associazione culturale di Bologna, il documentario sui lavoratori esposti all'amianto, anno 2018 e verrà la morte. Sì. Questo documentario contiene un pezzo dove un medico parla dell'acquedotto di Bologna, che è in amianto. Allora, alla fine della proiezione di questo documentario sui lavoratori esposti all'amianto, la presidente dell'associazione che aveva organizzato la serata di proiezione mi ha detto: ma è vera questa cosa dell'acquedotto di Bologna? Dico: sì signora, è verissima, solo che non lo sa nessuno. Anzi, non solo l'acquedotto di Bologna è in cemento amianto, ma tutti gli acquedotti italiani sono in cemento amianto. Allora lei mi ha detto: ma se vi paghiamo, troviamo un rimborso, potete fare un documentario su Bologna? E noi abbiamo detto: sì, lo facciamo per militanza, perché poi col crowdfunding hanno raccolto 1.600 euro, sì, e abbiamo fatto questo documentario sull'acquedotto di Bologna. Quindi è stato comunque anche un lavoro di squadra. Sì, la regia è mia, di Daniele Malfeddu, le riprese di Salvo Lucchese e le musiche di Pasquale Petrone, che sono tutte persone che fulcrano attorno all'associazione Orfeonica, che è questa associazione di donne cittadine di Bologna. Come avete svolto questa inchiesta, Giuliano? È stato difficile all'inizio, perché noi abbiamo mandato la mail e prima telefonato, poi abbiamo mandato la mail per avere un riscontro da mettere anche nel documentario, alla USL, agli ospedali, al sindaco di Bologna Virginio Merola, area PD, all'ARPA e a ERA. ERA è l'ente che gestisce lo smaltimento dei rifiuti e gestisce anche la rete idrica, sì, di tutta l'Emilia Romagna. È un colosso gigantesco, ERA, e tutti hanno risposto: grazie, ma non ci interessa l'argomento. Anche l'assessore alla sanità di Bologna, l'assessore all'ambiente, tutte area PD, SEL e altre, e Centro Democratico. Mm-hmm. E si sono rifiutati tutti di rilasciarsi interviste. Allora abbiamo fatto le interviste in Piazza Maggiore ai cittadini di Bologna. Mm-hmm. E abbiamo trovato anche degli oncologi di fama internazionale che ci dicono che l'amianto ingerito attraverso l'acqua è fortemente cancerogeno. Ecco, proprio a questo proposito, Giuliano, quanti sono i rischi rispetto a questa situazione? Allora, i rischi l'amianto è cancerogeno se inalato, sì, provoca il mesotelioma, sì. E se ingerito, un oncologo che abbiamo intervistato nel documentario, Luciano Mutti, di fama internazionale, ha detto: prova che il tumore al peritoneo. Sì. perché l'apparato intestinale, così come il polmone, sono avvolti dal mesotelio, e il mesotelio è una membrana che avvolge sia l'intestino che il polmone, e questa membrana è facilmente attaccabile dalla fibra dell'amianto, dove rimane in incubazione, poi si manifesta sotto forma di tumore. Dicevi il rischio è, rischio è elevato se respirato, probabilmente meno, anche anzi, devo essere sincero, la scienza è spaccata sull'amianto ingerito. È spaccata, però secondo alcuni oncologi anche ingerito è cancerogeno. E ingerito vuol dire che se c'è un rilascio di un totale di microfibre per litro d'acqua, ci può essere l'ingestione, ma non solo. Un medico, il presidente nazionale dell'associazione esposti amianto, dottor Vito Totire, ha parlato anche di amianto che rilasciato nell'acqua. Secondo un esperimento australiano, hanno fatto questo esperimento, hanno lavato degli asciugamani con acqua con fibre d'amianto, hanno fatto asciugare gli asciugamani, e gli asciugamani, una volta asciugati, rilasciavano fibre di amianto. Quindi non è solo un problema di, cioè è l'acqua domestica che è pericolosa. Sì. E anche quando evapora rilascia fibre, evidentemente. Esatto. Volevo chiederti, ecco, dicevi che è una situazione che riguarda, è più estesa, riguarda gli altri acquedotti italiani. Ecco, come mai questa storia non se ne sa nulla? Ah, questa è una bella domanda. Cioè, non sappiamo, intanto l'informazione, tu sai meglio di me, l'informazione nazionale è al 59esimo posto delle classifiche internazionali, sì. Quindi l'informazione non esiste in Italia. Questo documentario è stato finanziato con crowdfunding perché non ha trovato altre forme di sostentamento, nonostante noi abbiamo chiesto finanziamenti anche in giro un po', ma quando si parla di amianto c'è un'omertà incredibile. Quando poi si parla di amianto nelle tubature, è una bomba orologeria questo documentario, che esploderà il 15 settembre alla proiezione di Bologna. Il 15 ottobre, martedì prossimo, perché il sindaco dovrà prendersi le sue responsabilità. L'assessore alla sanità dovrà assumersi delle sue responsabilità, l'assessore all'ambiente idem, perché era anche l'ARPA, anche gli ospedali che sono legati a ERA e per conto di ERA fanno le rilevazioni, e tra l'altro nel giugno di quest'anno in alcune strade di Bologna sono state trovate 10.000 fibre di amianto per litro. E poi la notizia è una cosa pericolosissima, una cosa che dovrà far discutere la serietà di questo sindaco, ma di tutti i sindaci italiani, perché tutti i sindaci italiani sanno che i loro acquedotti sono in amianto, tranne alcuni acquedotti montani. E l'ultima notizia che ti volevo dare è di questa mattina a Carpi, in provincia di Modena, dove c'è stato il terremoto l'anno scorso. C'è una sollevazione popolare proprio in queste ore, e forse si dimetterà qualcuno a livello di amministratori pubblici, perché il terremoto che ha spaccato le tubature dell'amianto ha rilasciato, e questo è certo, ha rilasciato notevoli fibre di amianto e non è stata presa alcuna precauzione. E in queste ore c'è una manifestazione a Carpi, e qui dalle nostre zone si sta parlando abbastanza, tranne il TG regionale, che ovviamente è gestito dalla politica, quindi dai partiti, gli stessi partiti che gestiscono la rete idrica, che hanno i loro uomini dentro la gestione della rete idrica, sono gli stessi uomini che hanno la gestione dei giornali. Quindi è un affare tutto loro, quindi nessuno ha interesse a che questa notizia venga fuori, e noi abbiamo fatto i comunicati stampa anche alle agenzie di stampa della proiezione di 15 ottobre, al Cinema Europa, ma ancora nessun giornale ne ha parlato. Abbiamo mandato email a tutti, centinaia e centinaia di mail a tutti i giornali. Gli unici giornali che ne parlano sono i giornali web liberi, che non hanno pressioni politiche, e voi per esempio che non avete pressioni politiche, e basta. Del resto i giornali tradizionali, che non faccio nomi, censurano tutto. In chiusura, Giuliano, volevo chiederti se avete individuato anche soluzioni, visto che un problema così grosso che riguarda acquedotti che danno acqua a intere città, ecco, che ci sono possibili soluzioni? L'unica soluzione è la rimozione di queste tubature. Sì. I soldi ci sono, il presidente Esposti Amianto di Bologna, Vito Totti, ha detto i soldi ci sono, devono tirarli fuori. Bene, ricordiamo allora questa proiezione a Bologna, al cinema, all'Europa Cinema, martedì 15 ottobre. Il documentario si intitola H2A, l'amianto nell'acquedotto di Bologna. Giuliano Bugani è il regista, e ci puoi anche dare indicazioni se esiste un vostro sito internet che per saperne di più? Dunque, è in Creative Commons il documentario, sì. Quindi dopo il 15 ottobre verrà messo assolutamente in rete, su bene. Facebook, su Twitter, in qualsiasi forma, e tutti potranno utilizzare il documentario per fare promozione, per fare per creare associazioni di protesta. Io, se vuoi, tu hai la mia mail, certo. Il mio cellulare, se dopo questa telefonata, se vuoi metterlo radiofonicamente, per me non ci sono problemi, ti autorizzo. Benissimo. Allora, Giuliano, è sempre un piacere averti con noi, non è la prima volta che ci sentiamo, e a questo punto speriamo anche di rifarlo presto. Grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao. Oh, parliamo adesso di un film, Trans Europe Hotel, che è in programmazione al Nuovo Cinema Aquila per tutta questa settimana. Pronto? Per favore rispondete a questa. Pronto? Pronto? Luigi, ecco. 5, ecco, regista di Trans Europe Hotel al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma da ieri fino al domenica 13 ottobre. Luigi, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' di questo film. Ma guarda, questo film, intanto ieri sera ha avuto un grande successo, sala pienissima, abbiamo fatto un concerto, diciamo, di introduzione io e Patrizio Fariselli, il mitico tastierista degli Area, ed è un film musicale che parla di musica, girato tra la Sicilia e il Brasile. Tra l'altro, da te che insomma sei un musicista. Esatto, sono musicista, quindi ho raccontato questa storia, che è una storia di magia e razionalità, con il mio mondo, quello che è il mio mondo, il mio specifico, che è praticamente sono le prove musicali e tutto il resto. Qual è la magia, sì, e qual è la razionalità nel tuo film? Ma guarda, la storia è semplicissima, una storia un po' da fumetto, cioè Tex Willer, cioè un nostro amico percussionista di samba della favela Madureira di Rio de Janeiro, è stato fatto scomparire da un mago agli ordini dei trafficantes, e per una serie di motivi noi dobbiamo andare praticamente a cercare questo mago, farci dare una formula per fare ricomparire questo vecchio amico. All'interno di questa storia, naturalmente, che è una storia magica che ha dell'incredibile, c'è un fisico quantistico, che tra l'altro nel film è un vero fisico quantistico che insegna all'Università di Salerno e alla Boston University, e si chiama Giuseppe Vitiello, che dice: guardate, attenzione, non è questa storia, non è vero che è campata in aria, può essere vero, perché siamo tutti vibrazione, siamo tutti musica, siamo, e da qui poi parte, diciamo, una meditazione che da una parte è una meditazione diciamo sul valore della musica, della vibrazione molecolare, di chi siamo, che siamo tutti uguali, eccetera eccetera, e dall'altra una meditazione anche politica, perché questo amico era uno che con la samba combatteva i trafficantes, combatteva quindi diciamo, il grande traffico della droga, che poi significa interessi bancari e tutto quello che noi sappiamo. Quindi questo era il presupposto per parlare poi di mettere poi in immagini, di far sentire musica e di parlare anche in qualche modo di politica. Beh sì, poi musica, devo dire, io ho l'onore di avere avuto con me gente che vanno in colonna sonora, Danilo Rea e Paolo Fresu, ma poi dal vivo Alex Balanescu, Antonello Salis, Gianluca Ruggeri, Badara Sek, grandissimo cantante griot, uno dei più grandi cantanti di flamenco. Insomma, c'è un ensemble musicale che segue, che fa da coro alla storia, che forse poi è il momento più di intrattenimento per il pubblico che vedrà il film. Qual è peraltro stato? Io dimmi. Invito ad andare al cinema Aquila, perché certo, continua fino al giorno 13. Senti Luigi, come mai, qual è stata la molla che ha spinto un musicista a occuparsi di cinema e girare un film? Ma la molla è, diciamo, poi ci sono delle casualità, è il racconto, la voglia di raccontare, il fatto che in questo momento, rispetto agli anni, io sono insomma un po' âgé, come dire, quindi ho vissuto gli anni 80, nei miei, diciamo, nel mio decennio 20-30 anni, e quindi so benissimo che allora c'era, come dire, una specie di combattevamo la parola, il significato, e invece eravamo tutti verso il significante, la musica, quindi anche la musica non cantata, la musica non parlata, eccetera eccetera. Oggi invece c'è una situazione politica e una disgregazione tale che probabilmente il significato, quindi la parola e quindi il racconto, stanno assumendo una nuova importanza e diventano forse di nuovo rivoluzionari. Mm-hmm. Ora io non è che sono stato agito da questa ideologia, però poi nel corso del tempo ho capito che questa esigenza di raccontare viene da questo, e ne stiamo verificando. Noi l'abbiamo portato adesso al Festival di Rio de Janeiro, il Festival Internazionale, e l'abbiamo presentato nelle favele dove noi abbiamo girato, perché noi abbiamo girato nelle favele in guerra, diciamo, non proprio in mezzo alle pallottole, ma quasi. Mm-hmm. Ed è stato importante il confronto, quindi si può anche fare un cinema che esce dalle distribuzioni ufficiali e diventa un cinema sociale, un cinema politico, che noi vogliamo anche poi portare in giro col concerto, raccontando, parlando, incontrandosi. Insomma, può essere un momento di un carrozzone che gira, di un nuovo circo che intendo portare in giro. Senti Luigi, in chiusura, qual è l'equilibrio oggi tra magia e razionalità? Beh, un equilibrio non c'è, c'è una lotta impropria che noi viviamo nel quotidiano e che poi sono praticamente le due culture che non si integrano, ed è uno poi dei mali del nostro tempo, dei mali della società occidentale, ma ormai tutta società occidentale, è quella di non considerare proprio l'ambito poetico, l'ambito mitico, l'ambito magico, la coincidenza, la casualità, l'importanza di tutte queste cose che non sono razionali, uno, nella nostra vita quotidiana, salvo la psicanalisi che ha affrontato questo problema dal suo punto di vista, e due, poi anche nella concezione totale del mondo. Per cui, voglio dire, si è preferito fare tutto questo, porta, si è preferito scavare, avere più petrolio, credere nel progresso come diciamo produzione di beni inutili, piuttosto che stare sulla necessità, sulla magia, sulla dimensione, sulla vibrazione. Un tempo si parlava di vibrazione, adesso sembra che parlare di vibrazioni significa essere solo New Age. Non è vero, la vibrazione è una cosa importante, è la relazione, la verità, la relazione tra le persone. Insomma, c'è tutto un vissuto che l'ambito magico delle società extraeuropee ha maturato nel corso di millenni. Sì. E che è importante quanto avere scoperto la divisione dell'atomo e avere scritto anche i grandi libri sulla democrazia. Tutte queste cose in questo momento bisognerebbe sintetizzarle, creare forse il nuovo mondo. È possibile se pensiero razionale e pensiero magico si sposano, perché noi sono sei secoli in Occidente che l'abbiamo diviso. La Chiesa ci ha pensato di dividere corpo e anima, corpo e testa, pensiero e azione, cioè sono tutte cose divise. Invece ricreando questa unità si può pensare in forma nuova, secondo me. Bene, allora ricordiamolo: Trans Europe Hotel, al nuovo cinema Aquila qui a Roma, tutta questa settimana fino a domenica 13 ottobre. Un grazie al regista Luigi Cinque, io ti abbraccio e a risentirci presto, Luigi. Abbraccio tutti gli ascoltatori e te, ciao. ciao. Un salutone, ciao. Ed è tutto per Visionari, vi rimando al sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, alla nostra pagina Facebook e l'indirizzo di posta elettronica che è visionari@ondarossa.info. A giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15.